Allora, nel mio intervento, innanzitutto, devo premettere, non intendo affrontare in generale il problema delle fonti tedesche per la storia del Vicentino e del Veronese durante l'occupazione. Ecco, mi limiterò qui ad una serie di documenti che è già stata utilizzata da Enzo Collotti per il suo volume del 1963 sull'amministrazione tedesca dell'Italia occupata. E poi per altri suoi contributi su aree territoriali più limitate, quali ad esempio le Marche. Devo parlare più forte? Vabbè. Se tu mi sposti, grazie. Proprio così, vabbè. Allora, in questa serie di documenti che è stata autorizzata già in parte da Enzo Collotti, anche per i suoi contributi su aree territoriali più limitate, quali ad esempio le Marche, mi sembra ci sia Milano, il Piemonte. Ecco, si tratta dei rapporti mensili periodici di cui ha già parlato anche Marco Palla adesso, che ogni militea comandantua, o più precisamente direi ogni gruppo amministrativo insediato presso le 19 militea comandanturen in cui era suddiviso il territorio italiano occupato e sottoposto quindi anche all'amministrazione tedesca della militea Verwaltung, questi rapporti che ogni gruppo amministrativo inviò a partire dal momento dell'assestamento di questa militea Verwaltung al gruppo amministrativo centrale insediato a Riva del Garda. Ecco, direi qui, dopo quello che è stato detto già anche nelle giornate precedenti, direi non è proprio il mio compito fare un quadro delle strutture in cui si articolava l'occupazione tedesca, che è già stata anche del resto descritta da Enzo Collotti. E per comprendere comunque, secondo me, meglio la natura di questi rapporti periodici, mi sembra opportuno soffermarmi brevemente sull'articolazione e sulle competenze dell'amministrazione militare, che costituiva un organismo assai complesso e destinato a svolgere un ruolo importante, anche se fosse non l'unico, soprattutto nello sfruttamento economico dei territori occupati. Si affiancava e in parte si sovrapponeva al governo di Salò. Dunque, l'amministrazione militare era posta alle dipendenze del generale Tossan, che col titolo di Bevollmächtigter General der Deutschen Wehrmacht bei der Tedeschen Regierung rivestiva quindi funzioni di supremo comandante territoriale nell'intera area dell'Italia occupata. E questo Bevollmächtigter General aveva compiti territoriali sia di natura militare che amministrativa. Nello svolgimento delle sue funzioni, ecco, adesso mi occuperò soprattutto delle funzioni amministrative di questo di Toussaint, nello svolgimento delle sue funzioni amministrative, Toussaint era affiancato da un gruppo, anzi da un organismo, forse meglio dire, amministrativo, costituito da funzionari dell'amministrazione militare, i quali operavano sotto la guida del segretario di Stato Landfried, che è stato nominato appunto nel corso di questo convegno. Quest'ultimo aveva, Landfried, aveva per così dire il compito, la funzione di anello di collegamento tra Toussaint e il Bevollmächtigter des Großen Reiches, l'inviato Rahn, essendo il consigliere per le questioni diciamo, amministrative ed economiche di entrambi, almeno fino, diciamo, fino a luglio, fino all'estate del 1944. Dunque, al termine del suo processo formativo, che durò più o meno sino al febbraio del 1944, quando appunto Landfried venne nominato capo della Militär Verwaltung, al termine del suo processo formativo l'amministrazione militare risultò suddivisa in quattro dipartimenti principali, i quali corrispondevano ai settori fondamentali anche della sua attività e poi erano a loro volta suddivisi in una serie di ripartizioni secondarie. Ecco, io adesso dico solo i quattro dipartimenti principali, poi gli altri, insomma. Dunque avevamo l'Allgemeine Verwaltung, l'Allgemeine Wirtschaft, la Rüstung und Kriegsproduktion e l'Arbeit. E poi questa struttura fondamentale in dipartimenti e in ulteriori sottosezioni aveva un suo prolungamento e la medesima articolazione presso ogni gruppo amministrativo delle 19 militea comandanturen dell'Italia occupata, le quali a loro volta poi dipendevano gerarchicamente da Toussaint. Quindi ogni militare, ecco, poi c'è quello che ha detto anche già Marco Palla adesso, ogni militare comandantua era insediata in genere presso una città capoluogo di provincia. però accorpava in genere più province. Secondo un'organizzazione, a mio avviso, dettata probabilmente da motivi interni all'amministrazione militare, alla gestione del territorio occupato tedeschi, cioè loro non hanno rispettato per nulla la precedente suddivisione amministrativa italiana. Quindi, ad esempio, nel caso del Veneto, avevamo la Militare Comandantua 1009, di cui appunto, su cui mi soffermerò, che è insediata a Verona, comprendeva, oltre a questa provincia, inizialmente quella di Vicenza e inizialmente anche quella di Mantova. E poi appunto c'era la Militare Comandantua 1004 di Padova, che comprendeva invece le altre città venete, con esclusione di Belluno, che faceva parte della zona di operazione Alpenvorland. Ecco, dopo aver illustrato a grandi linee la struttura della Militare Verwaltung, adesso mi soffermerò brevemente su questi rapporti mensili sui laghi Berichte, redatti appunto dal suo personale, in particolare quello della Militare Comandantua di Verona. Ecco, penso che sia abbastanza ovvio, ma molte mie osservazioni riguardanti le carte della Militare Comandantua 1009 sono di carattere generale e quindi penso possano essere valide per qualsiasi altre città Militare Comandantua dell'Italia occupata. Ad esempio confermano, sentendo appunto Marco Falla prima, cioè quello appunto che ha detto lui per la Toscana, quindi secondo me proprio a livello di rapporti probabilmente tra forze tedesche, diciamo occupanti e autorità della Repubblica Sociale Italiana, molti problemi si ripetono nelle varie regioni dell'Italia occupata. Vabbè, questi laghi Berichte per almeno adesso sono conservati presso il Bundesmilitärarchiv di Friburgo, dove sono conservate le carte di vari organismi militari operanti in territorio occupato. Vennero sequestrate poi dagli alleati al momento della capitolazione tedesca e trasportate negli Stati Uniti, poi restituiti a partire dagli anni 60 alla Repubblica Federale. Ecco, l'arco di tempo ricoperto da questi laghi Berichte, assolutamente, solo che io non mi rendo conto se parlo pianoforte. Grazie. Forse no. Ah sì? Vabbè, cercherò. Allora, per quanto riguarda l'arco di tempo ricoperto dai laghi Berichte, va dalla fine del settembre del 43 al primo laghi Berichte della Militare Comandantua di Verona, è datato 27 settembre 1943, sino alla metà del settembre del 44. E quindi, come la maggior parte dei documenti che riguardano la Militare Verwaltung, e in genere tutti gli altri organismi dell'occupazione hanno evidentemente subito un processo di distruzione, di dispersione, e in particolare per quella parte che riguarda gli ultimi 8 mesi della guerra. Quindi in genere per la documentazione tedesca, per quello che ho potuto vedere io, ci fermiamo proprio all'inizio dell'autunno del 44, rimangono gli ultimi mesi della guerra scoperti. Ecco, poi concordo pienamente con Collotti nell'affermare che per quanto grave possa sembrare l'interruzione di questa fonte alla metà del settembre del 44, tuttavia cioè il fatto che questi rapporti mensili, che questi laghi Berichte coprano con continuità e organicità temporale il periodo che va dall'inizio dell'occupazione sino alla fine dell'estate del 44, quando erano già maturate alcune scadenze determinanti della Seconda Guerra Mondiale, quindi l'apertura del secondo fronte. Vabbè. Allora, mi difetto quello di parlare velocemente, quindi se intanto mi mette allora praticamente questi laghi Berichte vanno dall'inizio dell'occupazione sino all'estate del 44. In questo momento erano già maturate, questo è noto, alcune diciamo scadenze, alcune fatti determinanti per la Seconda Guerra Mondiale. E si intravedeva soprattutto già l'inizio del processo di sfaldamento delle forze tedesche e della Repubblica Sociale Italiana. Per cui il fatto che in questo periodo abbiamo la continuità di questi laghi Berichte, secondo me fa di essi una fonte direi di notevole rilievo, che comunque va verificata senza dubbio con altra documentazione, direi soprattutto italiana e soprattutto i notiziari della Guardia Nazionale Repubblicana. Io ho già provato a farlo, si offrono benissimo questo confronto incrociato. Ecco, una fonte di notevole rilievo per un'analisi dei mutamenti e delle trasformazioni avvenute durante il primo anno dell'occupazione all'interno della realtà italiana. e in particolare direi all'interno dei rapporti tra le autorità tedesche e quelle della Repubblica Sociale Italiana e tra gli occupanti e anche la popolazione, direi. Però bisogna tenere presente una cosa, che a mio avviso i laghi Berishtha di per sé, più che fornire come dire, una fotografia della situazione italiana, riflettono piuttosto la valutazione complessiva che ne diede l'autorità tedesca. E quindi bisogna tenere presente anche che l'angolo visuale nella redazione di questi laghi Berishtha, che tra l'altro sono compilati secondo uno schema, un modulo fisso, è quello degli addetti alla gestione e allo sfruttamento dell'apparato produttivo italiano, della popolazione, al fine di trarne quindi il massimo vantaggio per gli scopi bellici del Terzo Reich. Quindi anche tranne rari casi non troviamo in questi rapporti la registrazione di fatti che non rientrano nella stretta competenza dell'autorità militare della struttura di occupazione. Quindi ad esempio, non so, le notizie sull'attività di quelli che loro definivano bande partigiane figuravano soltanto nelle misure in cui incidevano sui lavori agricoli, per dire, oppure sul funzionamento dei trasporti, cioè non avevano interessi a valutare nel suo lato politico, o c'era, per questo c'era la polizia, l'SD, insomma, quindi... Vabbè, cercherò a questo punto di delineare alcuni problemi che emergono dalla lettura di questi rapporti periodici del gruppo amministrativo insediato presso la Militare Comandantua di Verona. Ecco, direi procedo per punti. Il primo problema, cioè il primo diciamo, aspetto che emerge da una lettura è che appunto tra i problemi più pressanti che i tedeschi dovettero affrontare inizialmente, un posto di rilievo ebbe la mancanza di un organico di personale sufficiente per fare fronte ai numerosi e non facili compiti che si prospettavano nel territorio occupato. Ecco, ne ha già parlato anche Marco Palla. Comunque, ad esempio, nel primo Lager Berichte della Militare Comandantua di Verona e della fine settembre del 1943, si riferisce che un Oba Inspectua era l'unico componente del gruppo amministrativo, quindi non c'era nessun altro. Poi nel Lager Berichte numero 3 della metà dicembre del 1943 viene ancora lamentata la mancanza di personale, però per la prima volta, quindi alla metà di dicembre del 1943, troviamo allegato un elenco di coloro che componevano il gruppo amministrativo, che erano ancora relativamente pochi. Ad esempio la Vicenza, che costituiva l'Außenstelle di questa Militare Comandantua, non aveva ancora assolutamente personale. Ecco, questa la carenza di personale venne avvertita particolarmente nell'ambito dell'Abteilung del settore Ernährung und Landwirtschaft, e probabilmente questo perché anche Verona e Vicenza erano province di economia prettamente agricola. Non so, adesso sarebbe interessante a questo punto fare un confronto con le Militare Comandature, non so, di Lombarde, non so, qui l'economia, oppure piemontesi. Ecco, dove sin dall'ottobre, in questo Abteilung Ernährung und Landwirtschaft, sin dall'ottobre del 1943 si organizzò un piccolo gruppo italiano che doveva affiancare gli addetti tedeschi nell'opera di controllo e poi essere anche loro di aiuto, soprattutto in quello che si diceva beim Ausgleich der Erfassungsprodukte. Adesso non so se l'ha portato, però ad esempio poi questi dipendevano, ad esempio questo gruppo avrebbe continuato a dipendere dall'amministrazione italiana ed essere pagati da questa, insomma, però aiutavano i tedeschi, questo è frequente, insomma, nella Gebericht. Poi va tenuto comunque presente che anche nella sua fase di maggiore espansione, l'amministrazione militare nel suo complesso non dispose mai in Italia di un organico di personale superiore ad un migliaio di funzionari, a cui vanno aggiunti poco più di un migliaio di dipendenti di altri uffici e ministeri del Reich inviati in Italia. Quindi direi, già stato osservato da più parti, comunque direi che l'insediamento di un'autorità italiana venne visto solo come un mezzo per facilitare l'amministrazione e lo sfruttamento del territorio occupato, come diciamo, una sorta di cuneo per entrare più direttamente tra la popolazione italiana e nella struttura amministrativa. E, dunque questa collaborazione, ecco un altro punto, direi, questa collaborazione spesso forzata, insomma su cui dipende, tra le autorità fasciste e quelle tedesche fu segnata da notevoli attriti. E si trattava indubbiamente di una situazione che implicava contraddizioni e difficoltà. Cioè, i tedeschi erano perfettamente consapevoli della necessità di impedire a tutti i costi la scomparsa dell'autorità italiana per evitare il caos completo, principalmente nel campo economico. Al tempo stesso, però, nutrivano scarsissima considerazione e estrema diffidenza nei riguardi delle autorità italiane. Non so se potrebbe aver inciso anche la traccia profonda lasciata in questa diffidenza negli ambienti politici militari tedeschi, oltre che dal progressivo collasso militare italiano, in fondo previsto anche dai tedeschi, anche dal crollo rapido e definitivo del fascismo il 25 luglio del 43 e poi forse in parte anche la capitolazione del settembre del 43. Comunque, quindi nei laghi Berichten frequenti sono i rilievi sulla disorganizzazione e l'inettitudine degli amministratori italiani, che secondo gli occupanti si dimostravano, appunto come diceva anche Marco Palla, troppo deboli ed incapaci a far rispettare i proclami e le leggi. Ecco, è indubbio a mio avviso che nei laghi Berichten venisse registrata lucidamente l'effettiva impreparazione e la debolezza della classe dirigente di Salò, poi anche il suo crescente distacco dalla popolazione, però nei giudizi appunto di coloro che hanno redatto appunto questi laghi Berichten si coglie anche il cliché sulla mentalità degli italiani, sulle loro scarse attitudini al lavoro e soprattutto a livello di poteri decisionali, e a questo livello dove i tedeschi tentarono in maniera sempre più evidente, soprattutto la primavera del 44, quando cioè la Militärverwaltung era già assestata, in questo momento tentarono di immaginare in tutti i modi le autorità di Salò, lasciando però ad esse, anche perché non poteva non farlo, i compiti esecutivi. E secondo me non è improbabile anche che dietro queste lamentele sulla scarsa funzionalità delle strutture italiane, queste lamentele diciamo, rappresentassero anche una sorta di paravento dietro cui le autorità tedesche tentavano anche di mascherare le difficoltà, spesso direi insormontabili, incontrate nell'attuare i loro piani appunto di utilizzo e di sfruttamento delle risorse italiane. Adesso potrei citare quanto scrive a metà gennaio del 44 il responsabile appunto del settore Ernährung und Landwirtschaft della Militärkommandantur di Verona, dopo aver sottolineato appunto l'incidenza negativa dell'intervento dei singoli organismi tedeschi e italiani senza una guida centralizzata e una gestione unitaria, che era una lamentela questa abbastanza ricorrente, direi una lamentela tradizionale dei laghi Berichten. E quanto diceva, dopo aver detto questo, weiterhin kommt hinzu, dass der italienische Apparat nicht so ausgebaut ist und auch nur mit großen Schwierigkeiten so ausgebaut werden kann, dass er den Forderungen der Kriegswirtschaft entspricht. Wenn auch die Mitarbeit des italienischen Verwaltungsapparates durchweg rege war, so lässt diese Arbeit doch eine wünschenswerte Exaktheit und Verlässlichkeit vermissen, so wenig zuverlässig der italienische Mensch an sich schon ist, so wenig zuverlässig ist naturgemäß auch seine Arbeitsphase, so wenig zuverlässig sind auch seine Angaben, wenn es sich um die erforderlichen Unterlagen der Wirtschaftsführung handelt. Ecco, queste ce ne sono ricorrenti, ad esempio ce ne sono anche sul traffico, ad esempio in Straßenverkehr kann man Dinge beobachten und erleben, wie für einen an deutsche Verkehrsdisziplin gewohnten Verkehrsteilnehmer überraschend sind, eccetera, eccetera. Non ce ne sono ricorrenti, anche per esempio per quanto riguarda la regolamentazione dei prezzi, insomma, dicono proprio gli italiani sono una catastrofe. Questo appunto si accentua, è proprio chiaro leggendo in ordine cronologico questi laghi Berichten, si accentua man mano che si va avanti, cioè probabilmente la situazione peggiorava, insomma, chiaramente. Vabbè, passo al terzo punto, alla terza considerazione, un aspetto che risulta con tutta evidenza dai rapporti mensili della Militärkommandantur di Verona è il progressivo peggioramento della situazione interna, economica soprattutto del veronese e del vicentino, col proseguire della guerra. Ma mentre la situazione, questa è una bella differenza, ma mentre la situazione politica generale nella provincia di Verona rimaneva invariabilmente tranquilla, die Lage in der stärker industrialisierten Provinz Vicenza ist etwas gespannter. Inoltre, sempre nella provincia di Vicenza, tra la fine del 1943 e i primi mesi del 1944, i tedeschi iniziarono a registrare brevi sospensioni del lavoro nelle industrie vicentine, soprattutto nel polo tessile alto vicentino. E queste sospensioni del lavoro inizialmente sembrarono non destare particolari preoccupazioni tra le forze di occupazione. Direi che questa distinzione tra il diverso comportamento, reazione della popolazione di Verona e Vicenza è stata osservata, mi sembra, proprio anche nei notiziari della Guardia Nazionale Repubblicana, cioè viene confermata lì, e, della relazione che è stata fatta al convegno di Belluno, quella sulla resistenza, guerra, guerra di liberazione, guerra civile, dalla relazione di Paolo Cossini e Pierpaolo Poggio, appunto sui notiziari della Guardia Nazionale Repubblicana. Loro hanno fatto la stessa osservazione, quindi vuol dire che effettivamente un confronto incrociato tra queste due fonti sarebbe anche, potrebbe essere fruttuoso. Allora, diciamo la causa, almeno da parte tedesca, di queste brevi interruzioni, di questi brevi scioperi nella provincia comunque di Vicenza, veniva individuata nell'esigenza di vedere soddisfatte le richieste di aumento dei salari e soprattutto di maggiore regolarità nell'assegnazione dei generi alimentari. A partire però dallo sciopero della fine febbraio, inizio marzo del 1944, e beh, io mi sembra lo sciopero venne anticipato rispetto al resto dell'Italia alla fine di febbraio, insomma scoppiò un paio di giorni prima. Beh, in quel momento, da quello sciopero, quando però contemporaneamente era già iniziata la cosiddetta Sauckel-Aktion, i tedeschi osservavano che il momento centrale della minaccia di ribellioni interne, avvertita allora come incombente, era dato dalle deportazioni. Ecco quanto scrivono: in der Provinz Vicenza Teilstreik in Schio, Valdagno und Vicenza. Arbeiterschaft in Textilbetrieben 80% Frauen an sich ruhig und vernünftig. Streikagitation nutzte Geschichte anlaufen der Sauckel-Aktion aus. Streik durch Veränderungen in kurzer Zeit beigelegt, sondern Maßnahmen nicht erforderlich. E questo nel Lagerbericht numero 6, il sesto Lagerbericht, tra metà febbraio e metà marzo del 1944. Un mese più tardi, il responsabile del Dipartimento Lavoro, sempre della Unità Comandatura di Verona, lamentando un ulteriore calo di disciplina nelle fabbriche, dove la manodopera, dopo le incursioni aeree, non faceva più ritorno, osservava che in Berichtszeit, molto, lo facciamo molto sinteticamente, in Berichtszeit interesse der Arbeiterschaft an Lohnfragen zurückgegangen. Streiks in der letzten Zeit nur wegen Dienstverpflichtungen für das Reich entstanden. E questo appunto nel Lagerbericht tra la metà, che andava dalla metà marzo alla metà aprile del 1944. E qui procedo solo per punti così senticamente. L'altro punto, direi un quarto punto, è il fatto che gli occupanti tedeschi riservavano attente cure allo sfruttamento delle risorse demografiche italiane. Come dimostra anche, del resto questo è già stato detto, comunque come dimostra anche l'organizzazione di un dipartimento centrale lavoro presso la Militärverwaltung dei territori occupati, di cui vabbè, era responsabile il rappresentante in Italia del Gauleiter Sauckel, il General Arbeitsführer Kretschmann. Vabbè, mi limito qui, appunto perché si è già parlato di questo, alcune osservazioni che scaturiscono dalla lettura dei Lagerberichte, dove largo spazio viene dedicato all'Arbeitseinsatz in Italien, al Reichseinsatz, alle Lohnfragen e all'Arbeitsdisziplin. Quindi ci fu un diretto rapporto, direi, tra le sempre più pressanti richieste di manodopera da inviare nel Reich, seguite dall'adozione da parte tedesca di misure sempre più severe per ottenere qualche risultato, e il mutare dell'atteggiamento della popolazione locale nei confronti degli occupanti, che seguì per così dire una parabola discendente. E analogo rapporto si constata anche tra i risultati dell'ingaggio per l'impiego di manodopera sul territorio italiano, in particolare appunto nell'organizzazione TOT, ma anche nella Wehrmacht e nell'amministrazione delle ferrovie, e le richieste sempre più pesanti di forze lavorative da trasferire in Germania, per far fronte alle quali i tedeschi furono costretti poi ad adottare metodi coercitivi. Vabbè, tali richieste provenivano in particolare da Kurt Sauckel, che aveva il compito di procurare al Reich le braccia per sostenere lo sforzo bellico di sostituzione di milioni di lavoratori tedeschi impegnati ai fronti di guerra. Durante i primi mesi, ecco, questo emerge abbastanza chiaramente, durante i primi mesi dell'occupazione la popolazione del Veronese e del Vicentino sembrò rifiutarsi più che di lavorare per i tedeschi di lavorare in Germania. Per cui sino al febbraio del 1944 l'Abteilung Arbeit presso la Militare Comandatura di Verona riferiva che il fabbisogno di manodopera sia per la Wehrmacht che per la TUT veniva soddisfatto senza difficoltà, anzi addirittura avevano problema di dove alloggiare questa gente. Sin dai primi tempi, invece, pochissimi lavoratori si presentarono per andare in Germania. Nel febbraio del 1944, gli addetti al reclutamento avevano maturato ormai l'esperienza sufficiente per comprendere, come scrivono loro, che freiwillige Arbeitsaufnahme in Deutschland, im genügenden Umfang, nicht zu erwarten war. E questo nel Lagerbericht dalla metà di gennaio del 1944 alla metà di febbraio. E a partire da quel mese si introdussero nuovi provvedimenti che si possono conseguire leggendo questi Lagerbericht, che andavano questi provvedimenti dell'Arbeitsdienstpflicht, era strillamenti presso le fabbriche che lavoravano ad orario ridotto, a richiamo degli uomini della classe del 44. E poi appunto addirittura per finire nella tarda primavera del 44 a deportare in Germania appunto coloro che stavano nelle carceri, oppure sì, i partigiani, coloro che riuscivano a catturare. E con tali misure appunto i tedeschi intendevano rendere possibile l'operazione organizzata da Sauckel per offrire l'economia del Reich. Abbiamo visto per il 1944, almeno trovo così scritto nei Lagerbericht, 1,5 milioni di lavoratori italiani, di cui in febbraio 4.000 avrebbero dovuto essere prelevati dalle sole province di Verona e di Vicenza. Beh, in Italia l'operazione Sauckel non ebbe diciamo scarso esito, almeno rispetto al numero di lavoratori che si prospettava di raggiungere Sauckel. Però nel Veneto, dal 1 marzo al 10 marzo del 1944, vennero reclutate circa 1 milione di persone. E tra l'aprile e luglio del 1944 il numero di veronesi e vicentini, probabilmente ci fu un periodo in cui in questa fase, in questi 10 giorni di reclutamento, e poi il numero cala, però per la fine di marzo, però tra l'aprile e luglio del 1944 si osserva il fenomeno che i veronesi e vicentini trasportati nel Reich conobbe nuovamente un progressivo aumento e il numero passa da 470 a 910. E alla fine agosto del 1944 la provincia di Verona è valutata al primo posto nella statistica dei lavoratori trasportati in Germania. 8,8% del totale proveniva da questa provincia. Però anche Vicenza, con il 5,6% rispetto ai totali deportati, era considerata guter Durchschnitt. Diminuì in maniera tale da mettere in serio allarme le autorità tedesche il numero di coloro che si rendevano disponibili a lavorare sul posto per le forze di occupazione. E gli stessi tedeschi individuavano tra la causa principale il timore di essere deportati e venire deportati, in particolare da quando la stessa organizzazione TUT aveva iniziato a spedire i suoi lavoratori nel Reich. Ecco, l'ultimo punto è dunque l'osservazione di un nuovo e più radicale mutamento dello stato d'animo della popolazione dopo il giugno del 1944. Dunque, il primo, diciamo, ci sono varie fasi, se così si può dire, un rapporto più, forse, più tranquillo, se così possiamo dire, fino al febbraio del 1944, poi appunto la situazione si fa più tesa dalla fine del febbraio del 1944 e peggiora ulteriormente, ma in maniera drastica, dal giugno del 1944. E in seguito sono gli stessi tedeschi a individuare la motivazione, in seguito appunto alla liberazione di Roma e all'apertura del secondo fronte con lo sbarco alleato in Normandia. E osservava il gruppo in Leiter della Militärverwaltungsgruppe presso la Militär Kommandatur di Verona, Militärverwaltungsüberrat Stein von Kaminski, ecco quanto osservava: Räumungs Roms wirkte wie ein Schlag, einesteils patriotisches Bedauern, andersteils genährt durch ausländische Rundfunksendungen, schwindendes Vertrauens auf den deutschen Sieg. Haltung der Bevölkerung zum Teil radikal verändert. Jetzt bei der Mehrzahl keine abwandelnde Haltung mehr, sondern schlechte verhehlte Neigung zur Sache der Befreier. Diese Tendenz neuerdings verstärkt durch die Landungsversuche an französischer Küste. Questo è il Lagerbericht della metà maggio alla metà giugno del 1944. Ecco, contemporaneamente a diffondersi della convinzione che l'offensiva alleata si sarebbe conclusa sulle Alpi e che che la sconfitta tedesca era ormai inevitabile, cioè c'era proprio questa convinzione all'inizio, perché chiaramente nell'estate del 1944, e che la sconfitta tedesca ormai fosse inevitabile, la liberazione quindi prossima. Nel Vicentino, direi in particolare, nel Veronese non sembra emerga il fenomeno, veniva registrato un considerevole aumento delle formazioni partigiane. E ad agosto il responsabile del dipartimento Ernährung Landwirtschaft informava gli organi centrali che l'attività di quello che lui definiva Rebellen aveva raggiunto una dimensione tale dass beim weiteren Ansteigen eine ordnungsmäßige Bewirtschaftung in Frage gestellt wird. Ecco, poi la serie di documenti si interrompe a questo punto e quindi non possiamo seguire le fasi successive che videro nel particolare i mutamenti ai vertici della Militärverwaltung. Questo spesso sia abbastanza noto: dopo l'attentato a Hitler del luglio del 1944, Karl Wolf subentrò a Tussan, mentre Landfried venne sostituito da Otto Wächter, un altro ufficiale dell'SS. E questo mutamento ai vertici della Militärverwaltung certamente non mancò di riflettersi anche nella struttura delle funzioni della Militärverwaltung in Italia, però questo non lo possiamo sapere perché i documenti finiscono qui.